ad ospitarmi e a coccolarmi. Ibernatemi presto, ve lo chiedo, vi prego. Superiamo questa epoca di calde stagioni. Risvegliatemi quando la luna è verde e il mondo brilla e il sole è trasparente. Anche se ci vorranno qualche milione di anni, ma finalmente sguazzerò leggero. Non perdete tempo, dai scongelatemi, in fretta vi prego. Via che bello, c'è anche una pianta che mi somiglia e gocciola acqua. Io ci faccio anche la doccia, poi me ne torno. Che bello, che bello, non si suda più, l'aria è fresca e non patisco più. Ci sono volute milioni, milioni di stagioni, ma il mondo è quello che volevo. Gli animali non vanno in letargo, sa